Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come avete già saputo, contrariamente a quanto avevo annunciato venerdì, revocato lo sciopero dei giornalisti, quindi siamo regolarmente in onda, magari qualcuno si dispiace, e vediamo subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Domani in Parlamento arriverà una parte importante della legge delega fiscale, quella che riguarda il cosiddetto contrasto, o meglio, creare situazioni di contrasto sull'evasione. Che cosa significa sostanzialmente? Quando tu hai la possibilità di scaricare le fatture che paghi per alcune prestazioni, l'idraulico, il falegname, l'elettricista e altre cose. E sarà discussa appunto domani. Lo dico perché si chiama contrasto di interessi nel caso specifico. Per cui tu metti in contrasto l'interesse del cliente, cioè mio, di poter scaricare una fattura con l'interesse di chi invece presta l'opera magari di farla pagare in nero. Se io la posso scaricare, il principio è questo, chiederò la fattura più spesso. In realtà voi moltissime volte avete scritto sia al 349-238-6666 sia su Facebook perché non parte questa cosa. Non è tutto così semplice e lineare come potrebbe apparire. Vi dico subito, ne parleremo alle 18:10, che da un lato rischia di essere molto minore il gettito per lo Stato, cioè lo Stato non incassa quello che io detraggo, ma se non è in grado di controllare le fatture dell'idraulico, dell'artigiano, del dentista, non incassa nemmeno le sue. E così è successo, devo dire, con le ristrutturazioni. C'era un bonus, lo Stato non ha incassato 3 miliardi perché uno li ha scaricate, ma di emerso sono stati solo 624 milioni di incasso per lo Stato, perché poi evidentemente anche persone che hanno fatto la fattura come per l'opera compiuta non l'hanno poi dichiarata nella dichiarazione dei redditi, e quindi lo Stato dà un vantaggio a te ma non riceve un vantaggio da chi poi non mette in dichiarazione la fattura emessa, ed è una cosa. Dall'altro c'è sempre il rischio che possa continuare a essere conveniente il nero, lo dico perché poi faremo due calcoli. Il problema è capire quanto io risparmio con la detrazione rispetto a quanto risparmierei con il nero. Stiamo parlando di pratiche illegali, cioè non c'è nessuna liceità, ed è anche colpevole chi accetta una prestazione in nero. Però siccome parliamo anche di un'Italia reale in cui sono 170 miliardi di evasione, bisogna ragionare in termini reali o perlomeno realistici. Domani, ripeto, sarà l'esame del Senato della delega fiscale, che contiene anche queste misure. Ancora parleremo in apertura invece dell'Ilva di Taranto, perché le accuse sono gravissime, l'ha raccontato anche il nostro GR. Sette persone agli arresti con provvedimento cautelare, quattro agli arresti domiciliari, tre persone in carcere, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, disastro ambientale e concussione. Gli arresti vengono eseguiti dalla Guardia di Finanza sulla base di due ordinanze di custodia cautelare firmate da GIP Patrizia Todisco e Vilma Gilli. Ci sono anche Fabio Riva, vicepresidente del Riva Group e figlio del patron dell'Ilva, che a sua volta Emilio Riva è domiciliare dal 26 luglio, l'ex assessore all'ambiente della provincia di Taranto Michele Conserva, il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante per inosservanza delle precedenti disposizioni e anche l'attuale direttore Adolfo Buffo. E poi i GIP dicono ci sono stati costanti contatti tra l'azienda e Vendola e il presidente della Regione Puglia, numerosi costanti contatti di Girolamo Archina e di Fabio Riva direttamente con vari esponenti politici, tra cui il governatore della Puglia Nichi Vendola. Ne parleremo, così come parleremo della Grecia, perché l'Eurogruppo oggi deve decidere che cosa fare per questa benedetta Grecia. Ormai è veramente più che una tragedia, è una saga. Ma tant'è, la borsa come sempre, meno 0,80% in questo momento Milano, meno 1% scusate Parigi, meno 0,35% Francoforte, meno 0,60% Londra. Euro su dollaro a quota 1,29,61, i titoli: Fiat Industrial perde il 2,80, Prismian il 2,20, Banco Popolare meno 2, l'1,70 lo perde la Popolare Emilia Romagna, l'1,60 Stima Microelectronics, l'1,40 Intesa, l'1,30 Eni e anche Ubibanca, l'1,1% il calo di Campari, di Unicredito, l'1% il calo di Finmeccanica e Telecom Italia. Fronte opposto, A2A più 4,24, Fiat più 1,30, Mediolanum più 1,1, Terna più 0,70%, appunto Facebook è il 349-238-6666 per i vostri sms, per commentare o chiedere o intervenire comunque nel programma, e le altre notizie in breve. In calo tranquillo però a 1749 dollari l'oncia, petrolio in calo 87,9 dollari il barile. L'autorità britannica dei mercati finanziari, la Consob britannica, ha dato una mega multa alla banca svizzera UBS, pensate, quasi 37 milioni di euro per il caso di Kiku Adoboli, l'ex trader dell'istituto accusato di aver provocato un buco da 2 miliardi e 300 milioni alle casse della banca. E adesso invece queste dichiarazioni che noi ogni tanto commentiamo, perché allora, io non ho capito bene perché, ma alcuni esponenti del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, insomma di tutte persone che dovrebbero anche avere un minimo di pruderia, di prudenza, di vergogna prima di parlare, perché la crisi del 2008, caro Fondo Monetario, cara Banca Mondiale, nemmeno voi l'avete prevista, tutti zitti finché non è esplosa, no? Lo dico, perché la settimana scorsa Fondo Monetario, anzi prima ancora Greenspan, un altro che doveva stare proprio zitto, visto che era lui il presidente della Federal Reserve mentre si stava costruendo la bolla tossica più pesante della storia, anche più del 29 probabilmente come valore. Beh, dico, oggi la Banca Mondiale, per voce del suo capo economista Kaushik Basu, dice: i maxi prestiti concessi a 3 anni dalla Banca Centrale Europea alle banche europee, ricordate i 1.100 miliardi che Mario Draghi ha dato a un tasso di finanziamento bassissimo alle banche europee, l'Italia ne ha presi 170, che hanno permesso al sistema di non fermarsi, perché hanno ricomprato le loro obbligazioni e hanno anche comprato titoli di Stato. Certo, non sono mai arrivati all'economia reale, o pochissimo ne è arrivato, però... Dice questo capo economista della Banca Mondiale: questi maxi prestiti creeranno scompiglio nell'economia mondiale quando il debito maturerà nel 2014-2015. È una montagna di debito e ci sbatteremo contro. Ci sarà un altro grande botto nell'economia mondiale nel 2014 e nel 2015. Sono misure che servono a guadagnare tempo ma non risolvono nessuno dei problemi alla radice. Allora, o lei ci dice che cosa fare, ci dice che questa è l'opinione della Banca Mondiale e che quindi vi sarà un'altra crack finanziario dal 2014-2015, è la linea della Banca Mondiale e ci dà anche le ricette, o ci fa personalmente, modestamente, la cortesia di stare zitto, perché di gufi ne abbiamo già tanti, ce n'è uno che la batte, batte anche lei. Ma dico, ma è da pazzi, che uno si metta a dire come capo economista della Banca Mondiale, quindi che ha un ruolo anche determinante, non siamo al bar dello sport, sbatteremo contro una montagna di debiti, vi sarà un altro grande botto dell'economia mondiale nel 2014-2015, cioè terrorizza e non spieghi cosa faresti tu, non spieghi perché non l'hai detto prima, non spieghi cosa avrebbe dovuto fare Draghi. Non è che Draghi sia Dio, però suggerite cosa? Strangolare ulteriormente le economie dell'area euro, perché non bastano i 50% di disoccupati greci, gli homeless in Portogallo, i dati della Caritas sulla Spagna, dove andiamo a finire anche noi fra un po', cioè non basta quello, ancora di più. Poi veniamo a dormire e mangiare alla Banca Mondiale, però. La Germania nel frattempo ha collocato anche oggi titoli di Stato a rendimento negativo, quindi si preferisce perdere soldi ma prestarli alla Germania, meno 0,095%, con una buona domanda, 5 miliardi di euro. Secondo molti molti giornali vi sarà un nuovo taglio del debito della Grecia, cioè la Grecia non riesce a ripagare neanche il debito che gli abbiamo già tagliato, si sta avvitando. Lo dico ai geni del Fondo Monetario, della Bundesbank e anche della Banca Mondiale. La Germania dice però il taglio del debito non è un tema, vabbè. E poi l'Unione Europea verserà 35 miliardi di euro al fondo di salvataggio delle banche spagnole il prossimo 15 dicembre, dice il quotidiano spagnolo El País, ma in cambio chiederà massicci licenziamenti nelle banche, che per carità va bene. Faccio notare che la Spagna ha già il tasso di disoccupazione più alto dell'intera area euro e quindi lo vedrà ulteriormente incrementarsi. Veniamo all'Italia, il premier Mario Monti, di cui parleremo perché oggi ha detto anche che contro gli evasori siamo in uno stato di guerra, non è possibile avere pace sociale, una pace tra cittadini e tra i cittadini e lo Stato se non viene ruvidamente contrastato questo fenomeno. Il premier ha ragione, mai in questo programma sentirete giustificare l'evasione. Poteva anche aggiungere una cosa, anche contro gli sprechi della pubblica amministrazione, anche contro le caste della politica, anche contro i costi della pubblica amministrazione, siamo in stato di guerra, cioè la guerra si combatte su due fronti in questo caso. Stiamo negoziando con la Svizzera, ha detto poi Monti, ma ci stiamo ponendo dei paletti perché vogliamo ben vedere che non ci siano forme di condono. Sì, fate presto però, perché sennò intanto i soldi si stanno spostando a Hong Kong, a Jersey, alle Cayman e quant'altro. E poi invece il Mario Monti di ieri che dice il peggio è passato. È sempre difficile dirlo, ma il peggio è passato. È sempre difficile dirlo, ma credo di sì, credo che sia passato. Nel marzo scorso l'Europa, poi se vuole parliamo dell'Italia, ma l'Europa era in una situazione di grandissima incertezza su cosa sarebbe successo. Da marzo ad allora, con la lentezza che caratterizza l'Europa, si è deciso che si possono fare interventi per stabilizzare i mercati nell'Eurozona e la Banca Centrale ha prestato gli strumenti per farli. C'è un patto europeo per la crescita che è più aperto di prima all'uso di investimenti pubblici europei, eccetera, eccetera. Tutte queste cose hanno dato luogo, tra l'altro, a una diminuzione dei tassi di interesse, quindi lo strangolamento di singoli paesi come l'Italia in termini di tassi di interesse sul debito pubblico o sui prestiti alle imprese si è allentato, quindi non ho dubbi personalmente che il peggio sia passato. L'Europa sta dando migliore prova di funzionamento oggi e quanto alla prova di funzionamento dell'Italia posso avere le mie opinioni, ma forse non tocca a me valutare. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti, e poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno. Noi siamo contenti che il premier dica che il peggio è passato. Oggi Bersani ha detto: io non sono sicuro che il peggio sia alle spalle, vedono davanti un anno difficile, la crisi sta portando molta sofferenza e preoccupazione. Faccio notare, al di là di Bersani, che la fiducia dei consumatori a novembre, dato Istat, è al minimo storico, cioè dal 1996 non era così bassa, da quando esiste la serie storica. Ora il premier dovrebbe anche capire quello che è poi il paese, cioè va bene che il peggio è passato, però fatecelo capire anche noi che il peggio è alle spalle. Ah, perché se no il peggio è alle spalle. Non vi dico le battute che stanno volando in giro su cosa abbiamo alle spalle. Vabbè, lasciamo stare, che il programma è. Non possiamo essere volgari. Comunque la crisi dei consumatori, ripeto, la fiducia dei consumatori è ai minimi dal 96. Pesano anche il deteriorarsi delle aspettative su futuro e disoccupazione. Il peggio non è sicuramente passato e non è sicuramente alle spalle dei dipendenti dell'Ilva, perché al di là di tutto il caos, ma tutta la parte dell'inchiesta giudiziaria, qui la situazione si aggrava. Ricordavamo 4 agli arresti domiciliari, 3 persone in carcere, tra cui Fabio Riva, vicepresidente del gruppo Riva Group e figlio di Emilio, che è ai domiciliari dal 26 luglio, l'ex assessore all'ambiente della provincia di Taranto Michele Conserva, già ai domiciliari, il indagato anche il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante, Adolfo Buffo, direttore dello stabilimento tarantino. È un'inchiesta parallela a quella per disastro ambientale che lo scorso 26 luglio ha portato al sequestro degli impianti del siderurgico. Chiedo spiegazioni e delucidazioni a Domenico Palmiotti, corrispondente Sole 24 Ore da Taranto. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. L'inchiesta è unica, è ambiente venduto, da qui però poi sono discesi 2 filoni. Uno che riguarda autorizzazioni amministrative rilasciate dalla provincia in materia ambientale, e qui si ricollega l'arresto ai domiciliari dell'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva. Un altro invece attiene specificamente il filone Ilva, e qui sono ricollegabili gli arresti in carcere di Fabio Riva, di Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento di Taranto, e di Girolamo Archinà, ex consulente dell'Ilva e addetto ai rapporti con le istituzioni locali. Complessivamente gli arresti sono 7, di cui 4 ai domiciliari, 3 in carcere, e di questi 7, 2 non sono relativi al filone Ilva, ma al filone province autorizzazioni ambientali. Il quadro che ne emerge è un quadro dalle intercettazioni di un'azienda che in tutti i modi premeva e spesso otteneva dalle pubbliche amministrazioni comportamenti e atteggiamenti compiacenti affinché un controllo fosse mitigato, affinché un'autorizzazione ambientale fosse annacquata, affinché insomma la posizione dell'Ilva non venisse penalizzata. E da lì si capisce anche perché è indagato anche l'ex assessore all'ambiente della provincia di Taranto Michele Conserva. C'è un altro aspetto però molto delicato che riguarda i costanti contatti dell'azienda con il governatore Nichi Vendola e con vari esponenti del governo pugliese. C'è anche un'intercettazione, una telefonata contenuta nell'ordinanza in cui Vendola dice: state tranquilli, non è che mi sono scordato, il presidente non si è defilato, lo dice all'ex direttore delle relazioni dell'Ilva Girolamo Archinà. Il ministro Clini ha detto preoccupato per gli effetti gravissimi, ma insomma quanto rischia di pesare o inguaiare anche il governatore Vendola? Vendola, quando già queste intercettazioni vennero fuori ad agosto, quando già emerse in modo chiaro come Archinà premeva a tutto campo e su tutti i partiti, perché Archinà ha avuto sia rapporti con la giunta regionale di centrodestra che con l'attuale di centrosinistra, Vendola disse a sua difesa: non c'è un atto della regione, degli uffici della regione, che sia andata a favore dell'Ilva. Vendola ha sempre citato, e ne ha tratto anche vanto di questo, delle 3 leggi regionali che hanno messo l'Ilva nell'angolo per quanto riguarda l'abbattimento degli inquinanti: la legge sulla diossina, la legge sul benzopirene e adesso la legge sulla valutazione di impatto del danno sanitario. Ecco, Vendola si è sempre giustificato dicendo: noi abbiamo fatto cose importanti, abbiamo messo l'azienda nell'angolo, abbiamo introdotto leggi che hanno stretto notevolmente l'Ilva, obbligandola a intervenire, a migliorare i suoi impianti affinché le emissioni più pericolose fossero abbattute. E poi Vendola ha sempre difeso il lavoro dell'ARPA. In verità il lavoro dell'ARPA è anche servito ai pubblici ministeri per costruire le tesi di accusa che oggi sono sotto i riflettori. Ma il dato nuovo, Sebastiano, dell'inchiesta è il blocco, il sequestro delle merci che ha disposto oggi la magistratura con un altro provvedimento. In sostanza sono sequestrati i coils, le lamiere prodotte in questi mesi dall'Ilva. Il ragionamento che fa la procura è questo: l'Ilva dal 26 luglio scorso agli impianti dell'aria a caldo sequestrati, quindi i prodotti frutto di questa attività sono prodotti di attività che i giudici ritengono penalmente illecita e quindi anche questi prodotti sono stati sequestrati. Va da sé che adesso l'Ilva, certo, non potendo più produrre, non potendo più ricavare dalla ghisa, dall'acciaio i prodotti finiti che poi vende sul mercato, vende ai suoi clienti, inevitabilmente sarà costretta a fermarsi, perché se dovesse ancora produrre, se dovesse ancora fare prodotti finiti, inevitabilmente aggraverebbe la sua posizione. Questo è un punto molto critico, perché io penso che adesso l'azienda rischi di fermarsi sul serio se non si troverà una qualche soluzione. Sì, era quello che noi temevamo fin dall'inizio, fin da questo estate quando ce ne siamo occupati, fermo restando che chi ha compiuto atti che hanno recato un danno poi agli abitanti, oltre che violare le leggi, va punito, va messo in carcere, va condannato, se verrà dimostrato questo, si sperava di riuscire a mettere in sicurezza le emissioni dell'IVA senza bloccare l'impianto e soprattutto senza che venissero messi in cassa integrazione o comunque non avessero più lavoro tutti i dipendenti dell'Ilva, perché poi c'è anche l'indotto. Mi rendo conto che scusatemi che è un sentiero stretto, ma era questo il tentativo auspicato. In realtà non ce l'abbiamo fatta, Domenico. Questo sì, dici bene quando parli di sentiero stretto, ma io credo che questo è ancora il sentiero necessariamente da percorrere, perché giustamente l'inchiesta penale deve andare avanti, giustamente le responsabilità vanno colpite, però c'è un bene più grande che il lavoro anche di 12.000 persone, e questo bene va tutelato insieme alle condizioni di salute dei tarantini. Cioè non perdiamo di vista le partite fondamentali: da un lato il risanamento dell'ambiente, la tutela della salute di migliaia e migliaia di cittadini, e dall'altro migliaia di posti di lavoro. 17:33 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevo, come ogni anno da 23 anni il Sole 24 Ore pubblica una classifica che poi vari amministratori locali utilizzano, la classifica della qualità della vita. Ci sono tanti parametri dentro. È uscita oggi su Sole 24 Ore, conferme: Bolzano, sì, aveva fatto Trieste, Bolzano, sono sempre quelle che si muovono. Comunque, Bolzano è prima, scalza Bologna, se non ricordo male, rispetto all'anno scorso, e Taranto è ultima e scalza Foggia, se non ricordo male, che era ultima l'anno scorso. 349-238-6666 per i vostri sms. La curata come ogni anno Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, che è nostro ospite. Buonasera Rossella. Buonasera a tutti. Allora Rossella, dicevo Bolzano e Taranto, l'anno scorso era Foggia, Bologna prima. In realtà noi abbiamo preparato una scheda che ricorda un po' come si è mossa la classifica, ma prima della scheda dimmi qual è la cosa che più ti ha colpito, poi andremo a analizzare le varie posizioni. Non possiamo fare tutte le province, sono 107, per cui poi ognuno se la guarda su Sole 24 Ore, ma la cosa così che ti ha più impressionato di quest'anno? Più che altro impressiona questa conferma di un quadro abbastanza statico che vede un'Italia nettamente divisa in due, con ai primi posti sempre queste province del nord Italia, agli ultimi posti un sud che fatica a emergere, a risolvere problemi decennali, problemi di sempre, che sono soprattutto l'occupazione, l'imprenditoria e anche le opportunità per il tempo libero piuttosto che per la cultura. Perché qui veniamo alle voci che avete utilizzato. Quali sono le voci che compongono poi il punteggio finale? Perché sono varie voci. Sì, sono 36 parametri, più o meno rimangono gli stessi negli anni, salvo qualche modifica per aggiornare all'attualità la ricerca che facciamo. Sono quindi 36 parametri suddivisi in 6 aree tematiche che riguardano tenore di vita, affari e lavoro, servizi, poi poi abbiamo la popolazione, l'ordine pubblico, cioè la sicurezza, e il tempo libero, che comprende anche appunto la possibilità per i residenti di un territorio di godere di elementi che non siano solo economici, certo, o quindi all'interno di queste sei categorie: tenore di vita, affari, lavoro, servizi, ambiente, salute, popolazione, ordine pubblico e tempo libero. Poi ci sono delle sottocategorie che compongono ogni singola categoria. La nostra scheda ci ricorda, al di là, ripeto, della prima e dell'ultima, come si sono mosse internamente le province. Dico subito che le due metropoli, Milano e Roma, sono salite non tantissimo, di un paio di posizioni nella classifica. Province di media grandezza del centro-nord, le meglio dotate sul fronte dell'imprenditoria, del lavoro, delle infrastrutture e della rete sociale. Ad essere premiate ancora una volta dalla classifica del Sole 24 Ore, le realtà che meglio hanno risposto alla difficile fase di crisi. Di riflesso, non sorprende che nelle retrovie ci siano, di nuovo, le province del sud. Ma andiamo con ordine. Bolzano, già prima nel 1995, nel 2001 e nel 2010 torna in vetta grazie ai buoni piazzamenti nei settori affari e lavoro e tempo libero e nella voce ordine pubblico. A premiarla la bassa disoccupazione, le presenze turistiche e la modesta microcriminalità. Bologna, vincitrice nel 2011, scivola di 9 posti, mentre Siena e Trento si aggiudicano l'argento e il bronzo. Nella top 10 anche Rimini, Trieste, Parma, Belluno, Ravenna, Aosta. Molte conferme, purtroppo, anche nella parte bassa della classifica. Fanalino di coda un'altra città pugliese, Taranto, dopo che lo era stata Foggia nel 2011. Taranto è infatti al 94esimo posto per tenore di vita e servizi ambiente e salute, 104esima nel tempo libero e 103esima nel settore popolazione. E i grandi centri come si sono comportati? Salgono due gradini Milano e Roma, rispettivamente 17esimo e 21esimo posto. E se il capoluogo lombardo è primo per benessere economico, Roma tiene per tenore di vita, affari e lavoro, mentre va male in ordine pubblico e sicurezza. Nei singoli settori, Cuneo si aggiudica il primo posto per affari e lavoro, Bologna e Lucca prime alla pari per servizi, ambiente e salute. Piacenza in vetta alla voce popolazione. Oristano nel capitolo ordine pubblico. Rimini, per la quarta volta consecutiva, per il tempo libero. Quindi molte conferme, anche qualche delusione, qualche... come nel caso di Bologna, niente di grave, ma insomma è passata dal primo posto dell'anno scorso al decimo posto di quest'anno. Come, Rossella, la crisi ha inciso e sta modificando questa classifica? Sì, anche questa classifica ci parla della crisi. Mm-hmm. Ci parla della crisi nel senso che ci conferma i primi posti le province, le aree territoriali che meglio hanno potuto resistere al periodo, alla fase di recessione. Quindi Bolzano, Siena, Trento, tutte aree che possono contare su alcuni elementi cruciali in momenti come questo, tipo un'imprenditoria più diffusa, mm-hmm, che altrove, una certa sicurezza sul fronte dell'ordine pubblico. Sì, su Siena la crisi del Monte dei Paschi ha avuto un'incidenza banale, minoritaria. Sì, su Siena direi di sì. Siena era stata anche ai primi posti negli anni passati. In questo caso i fattori che più si riferiscono al reddito sono i risparmi, i depositi per abitanti, il PIL per abitante, l'importo medio delle pensioni. Quindi sono dati riferiti al 2011 che danno comunque alcuni punti di forza alle società, alle realtà territoriali che si pongono nella top 10. E quindi senz'altro la crisi si sente, anche perché andando a vedere le medie di settore, per esempio, non so quante sono le imprese per abitante, piuttosto che qual è il rapporto tra sofferenze e prestiti, si nota un certo peggioramento del valore medio. Quindi in un contesto che comunque è in recessione, abbiamo delle realtà che più forti da sempre rispetto ad altre riescono ancora a reggere meglio l'urto della crisi. Sì, però diciamo, per concludere, è più una tenuta che una crescita. Diciamo, sì. Uno sale la classifica perché tiene meglio degli altri, non perché faccia dei balzi in avanti. È un po' come se in una fila tutti dovessero fare un passo indietro, tu diventi il primo, ma non hai fatto tu un passo in avanti, se mi permetti l'esempio. Sì. Per sì, cui direi che è una sorta di scalata alla vivibilità, nel senso che è sempre più difficile affermare certi valori. Allora, io nel ringraziare sulla cadea vedo molti messaggi, trovate tutto su Sole 24 Ore. Comunque Milano è la più ricca dopo l'interregno di Treviso nel 2011, tenore di vita più alto, invece Cuneo è quella più intraprendente, supera anche Reggio Emilia e Bolzano per l'imprenditoria, per l'intraprendenza, tra l'altro decisivi i giovani. A Cuneo è il bassissimo tasso di disoccupazione. Pensate che a Cuneo è del 3,80% la disoccupazione, praticamente quasi un terzo di quella nazionale. Sui servizi ambiente e salute invece vincono le emiliane, più la romagnola Ravenna e tre lombarde, per cui Piacenza e Parma sono una variazione positiva, le uniche a vantare una variazione positiva di giovani. Per cui sulla popolazione nei 10 anni sì, hanno un dato buono sui giovani. Ordine Pubblico e Oristano è l'area più tranquilla del paese. Poi seguono Belluno e Crotone. Su Crotone, perché va bene, voi dati alla mano. Questi sono dati riferiti ai reati denunciati, quindi non è neanche detto che dove ci siano pochi reati denunciati non ci siano reati. E c'è la presenza della criminalità organizzata, vabbè. Rimini numero uno nel tempo libero, quindi gli svaghi, un distacco ancora più ampio rispetto alle altre, rispetto all'anno scorso. La voce bar ristoranti premia la Sardegna. Grazie a Rossella Cadeo per averci, come ogni anno, raccontato come cambia, devo dire poco. Nel senso che, ripeto, resistono, non crescono. La qualità della vita nelle città italiane. Adesso c'è la borsa. Ciao Condina, Radio Colli Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Io archivierei la giornata dicendo che in attesa del vertice europeo dell'Eurogruppo di questa sera sono tutte caute le borse, è il vertice di cui parliamo tra un minuto per tentare di capire come fare a salvare la Grecia, se tagliare ulteriormente il suo debito. Meno 0,70 Milano, meno 0,80 Parigi, meno 0,20 Francoforte, meno 0,70 Londra, meno 0,70 anche il Dow Jones. Molto bene, A2A, partiamo da A2A e poi le altre. Sì, sul titolo, il titolo è sicuramente influenzato dal buon sentiment del mercato dimostrato venerdì dal mercato obbligazionario. Ricordiamo che A2A offriva un bond da 500 milioni, ci sono state offerte per oltre 4 miliardi, anche perché il rendimento garantito era interessante, era attorno al 4,5%. In più si sta per concretizzare la cessione del 25% di Metroweb, che resta in portafoglio da A2A. Grazie a questa operazione la società incasserà quasi 60 milioni e una plusvalenza superiore a 30 milioni. L'operazione avverrà nei prossimi giorni. E da lì è il titolo che è il migliore tra quelle a maggiore capitalizzazione, oggi infatti ha guadagnato il 4,66%. Sempre di obbligazioni parliamo, quindi di una richiesta di prestito, ma questa volta la Fiat. Il secondo miglior titolo, Fiat intesa come auto, più 1,41%. Eh sì, qui Fiat oggi ha deciso di riaprire un bond che aveva lanciato recentemente, un bond collocato per 600 milioni a fronte del notevole interesse dimostrato da parte degli investitori istituzionali, anche in questo caso comunque attirati da rendimenti decisamente interessanti. Il Lingotto ha deciso appunto di offrire nuovi titoli di debito. Fa da contraltare alla, diciamo, al balzo della Fiat Spaced, fondamentalmente dell'auto, fanno da contraltare le forti vendite su Fiat Industrial, che oggi è il peggior titolo delle blue chip, cede il 3%. Ricordiamo che settimana scorsa questo titolo aveva guadagnato molto nell'imminenza dell'accordo dell'integrazione con l'americana CNH, e oggi con l'ufficializzazione appunto dell'accordo questa mattina sono arrivati puntualmente i realizzi. Eh sì, Fiat è come auto il secondo miglior titolo, come camion e trattori, cioè Industrial, il peggior titolo, meno 3%. Negativa anche Prismian del 2%, il Banco Popolare meno 1,80%, ST Microelectronics meno 1,70%, Popolare Emilia Romagna meno 1,60%, Eni meno 1,20% come UbiBanca, Campari meno 1,1% come Intesa San Paolo e Finmeccanica. Andiamo poi, dopo il traffico, sui titoli più sottili. Ah, devo citare però il Monte dei Paschi, perché è l'unica banca positiva, più 0,25%, dopo che il direttore generale Viola ha detto che prosegue bene la ristrutturazione. Dopo il traffico, un paio di titoli più sottili: da un lato Antiche Pellettieri, dall'altro la Rizzoli Corriere della Sera. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Ceo Condina, due titoli più sottili: da un lato Rizzoli Corriere della Sera, c'è molta attesa per il piano che verrà presentato da Scott Iovine, e dall'altro, ma in realtà è andata bene, anche Antichi Pellettieri. Eh sì, partiamo dall'ultimo: Antichi Pellettieri veniva da un più 100%. Più 100%, sì, la settimana scorsa. Sulla scia di un accordo per la ristrutturazione dei debiti con le banche. Oggi era stato, insomma, c'erano dei forti realizzi, è arrivato a perdere il 7%, però poi con un colpo di reni in chiusura di seduta è andato ancora avanti, più 5%, insomma, questo comunque è un titolo molto sottile. Per quanto riguarda invece RCS, come hai detto giustamente, c'è grande attesa. Ieri c'è stato questo nuovo summit tra consiglieri e soci di RCS, grande attesa per un piano di rilancio strategico che contemplerà fondamentalmente due cose: un aumento di capitale, insomma si parte da una base di 400 milioni di euro, ma anche una profonda ristrutturazione. Sì, devo dire, in assoluto il miglior titolo è Eukedos, più 21%, il peggior titolo Basic Net, meno 7,90%. Dicevamo che tutte le borse sono molto alla finestra, sono state molto alla finestra, perché questa sera c'è il vertice dell'Eurogruppo e quindi i paesi dell'euro che devono decidere che cosa fare con la Grecia, e cioè dare o no un taglio al suo debito, come chiede la Grecia, o avere la linea più intransigente, che è quella tedesca. 349-238-6666 per i vostri sms, una bella ballata dell'euro. Vittorio D'Arold, dacci oggi la nostra Grecia quotidiana. Questa sera c'è un vertice importantissimo, mi sembra che le trattative continueranno fino a tarda notte, tre riunioni in due settimane, un nuovo vertice straordinario. Il debito greco intanto continua a salire, perché nonostante tutte le misure di austerity si sta avvitando l'economia, lo spieghiamo ogni giorno. Consumano sempre meno i cittadini greci, hanno sempre più disoccupati, il PIL cresce sempre meno, e quindi il rapporto debito-PIL, anche se tu riduci un po' a livello nominale il debito, continua a aumentare, perché è un rapporto, tant'è che nel 2020 dovrebbe essere del 190% del PIL rispetto all'obiettivo del Fondo Monetario, che era il 120% del PIL. Allora, il Fondo Monetario dice sostanzialmente ai paesi creditori, Germania, Francia, Italia, tagliate ancora i vostri crediti con la Grecia, non riusciranno mai a ridarvi questi soldi, già li hanno tagliati del 50% con l'haircut di inizio anno. si arriverà a un accordo, perché ho visto la Germania molto, molto dire, non se ne parla proprio. Sì, esattamente, siamo sempre alle solite. La Germania cerca di ritardare, di non avere il problema che, come tu sai, questo accordo, anche se questa sera tutti dicono che si arriverà, poi è un accordo politico, politico, e quindi i dettagli non saranno ancora resi noti, dovranno essere approvati dai parlamenti, perché nel caso tedesco deve andare al Bundestag. E a quel punto manca la maggioranza, cioè su questa vicenda la cancelliera tedesca ha sempre il problema di non avere una maggioranza coesa nel momento in cui c'è un solo euro che in qualche modo viene regalato, perso dal contribuente tedesco, perché basta che uno si alza e dica no, uno della compagine dei bavaresi o del partito dei liberali che appunto è in coalizione con il partito del cancelliere, ed ecco allora che sono sempre venuti in soccorso i socialdemocratici. Ma i socialdemocratici in questo modo sono in campagna elettorale anche loro, e quindi, come hai visto con l'accordo tra Svizzera e Germania, che era questo accordo fiscale, è saltato proprio perché i socialdemocratici l'hanno fatto saltare. Mm-hmm. Ecco quindi che ormai questi voti che erano trasversali potrebbero non esserci più, perché i socialdemocratici hanno deciso di aumentare, diciamo, i problemi per la Merkel, e dire di la verità è che per salvare la Grecia ci dovremmo lasciare dei soldi. Ecco perché c'è un grosso scoglio. È inevitabile, dopodiché la Germania sta guadagnando da questa situazione, visto che oggi ha collocato 5 miliardi di titoli di Stato, di Bund, a rendimenti negativi, meno 0,095. Quindi pro e contro, se si vuole stare nella stessa casa, ossia l'euro, chiedi alla Grecia di fare i compiti, però poi la tieni in casa, non è che sbatti fuori il figliolo che è stato rimandato o bocciato a scuola, non è questo il metodo. Certo, tieni conto anche che più una delle opzioni sul tavolo, no? Quelle di aumentare, naturalmente, di ridurre ad esempio i tassi di interesse, che nel primo salvataggio che venne deciso nel maggio 2010 erano tassi del 5-6%, erano molto alti. Allora una delle proposte è quella di ridurle, oppure addirittura fare una specie di riduzione, congelamento per un certo periodo, e quindi non però, pagarli. Scusami, non ho capito una cosa. Sì, ha ragione l'ascoltatore che dice, guardi che c'è anche la Svezia, la Finlandia e l'Olanda. Ho capito, ma sono gregari, col massimo rispetto per gli svedesi, i finlandesi e gli olandesi. Dopodiché, se vogliono farsi l'euro del nord, se lo facessero, a me non interessa, però io sto parlando dell'euro che esiste. Svezia non è nell'euro, poi. Tra l'altro la Svezia non è nemmeno nell'euro, c'è la Finlandia sì e l'Olanda sì. No, una cosa volevo capire, perché senza una nuova intesa non si sbloccano gli aiuti per la Grecia, che sono 31 miliardi e mezzo di euro, però ad Atene abbiamo sempre chiesto di approvare il piano di austerità, loro l'hanno approvato. Sì, loro hanno fatto allora, i compiti a casa. E allora? È questo qui il vero dramma. Cioè, per una volta che i greci hanno fatto tutto quello che gli veniva chiesto, ed è stato, vi garantisco, una questione molto pesante, perché hanno veramente tagliato. Ma dovuto fare i tedeschi una cosa del genere. Ecco, adesso che hanno cioè dal 2008 i greci hanno perso il 25% del PIL, cioè non è uno scherzo. Cioè, e l'anno scorso il 15% del potere d'acquisto, vuol dire che chi guadagnava 1000 euro ne guadagna 850. Hanno ridotto i salari, perché loro hanno i salari minimi. Le tredicesime non ci sono più. Insomma, hanno fatto, perché come sapete, quando non puoi svalutare la moneta, svaluti internamente i salari, il costo del lavoro. Quindi l'hanno fatte queste cose, hanno ridotto le pensioni. Certamente si può fare ancora di più, c'è ancora molta evasione, c'è molta corruzione, ma questi sono... Sì, ok, non è che possiamo cambiare la Grecia, ecco. Non siamo riusciti a cambiare l'Italia o certe zone del sud Italia in 50 anni, esatto. Adesso facciamo fare i compiti ai greci, ma non possiamo farli diventare svedesi, se no è troppo facile così. Sì, tu hai ragione, perché è come con l'esempio di prima, se tuo figlio che finalmente fa i compiti e prende un buon voto, tu lo sbatti, come dici, comunque no, però io il premio non te lo do. È l'esempio peggiore per un padre, per un genitore, ed è quello che rischia di compiere l'Europa. Staremo a vedere, si va per le lunghe, come tu ricordavi, sì, questa notte. Assolutamente. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso ci occupiamo della delega fiscale, perché perché domani sarà l'esame del Senato e contiene la legge delega fiscale anche le misure per detrarre le spese documentate, il cosiddetto contrasto di interessi. Cosa vuol dire contrasto di interessi? In sostanza, uno potrebbe detrarre le spese documentate con scontrini o ricevute, e quello è il meccanismo ispirato al contrasto di interessi tra l'acquirente, cioè magari io che ricevo un'opera, che sia un falegname, un elettricista, un dentista, non mi interessa, e quello che l'opera il prestatore d'opera. E l'obiettivo è combattere l'evasione fiscale. Sostanzialmente il principio è: se io so che posso detrarre parte o quello che ho speso per queste opere, tenderò a chiedere lo scontrino e quindi detrazioni fiscali per le spese sostenute e su cui sono state pagate regolarmente le tasse e dunque fatte pagare l'IVA, fatte pagare al venditore e l'IRPEF. Vorrei intanto valutare e sapere cosa ne pensa, visto che oggi il Premier Mario Monti ha anche detto che contro gli evasori, sul profilo del fisco, contro gli evasori siamo in uno stato di guerra. Vorrei saperlo dal presidente dei dottori commercialisti e esperti contabili, Claudio Siciliotti. Buonasera, presidente. Buonasera a lei che ci ascolta. Allora, come ricordavo, al di là dell'immagine di pancia, che questo potrebbe risolvere i problemi dell'evasione, gli esempi che abbiamo non vanno necessariamente in questa direzione. Da un lato, all'estero non è vero che esista questo, in America si può fare, ma è un forfè, come avviene da noi, per esempio, è avvenuto per le ristrutturazioni. Dall'altro, proprio il caso delle ristrutturazioni, nel 2011, a fronte di sconti ai cittadini per 3 miliardi, sono emersi solo 620 milioni, con un ammanco per l'erario di circa 2 miliardi e 4, perché poi lo Stato fa anche un calcolo tra quanto non incasso perché tu hai detratto e quanto incasso perché a questo punto chi ti ha fatto la fattura poi la dichiara. Ebbene, lo Stato non ha incassato per 3 miliardi e ne ha incassati invece per 620 milioni e quindi c'è un saldo negativo di 2 miliardi e mezzo. Lei com'è? Scettico, al di là così del fatto che sembra una proposta emotivamente molto, molto corretta, oppure ritiene che si possa andare avanti in questa direzione? Ma guardi, questo è un argomento di cui si discute da tantissimo tempo. La proposta è sicuramente seducente, l'idea del conflitto di interessi altrettanto. L'applicazione è molto difficile anche perché avere più cose detraibili e deducibili amplia le necessità di controllo. E oggi già si fa fatica a controllare quel poco che si detrae, aggiungendo più categorie di beni detraibili o deducibili diventerebbe sempre più difficile. Io credo che la strada sia più legata alla tracciabilità, cioè io non sarei per introdurre meccanismi ferrei che poi alla fin fine, come è stato detto, non funzionano, ma magari immaginare meccanismi premiali per chi segue un sistema di pagamento tracciabile, perché questo potrebbe essere un'idea. L'altra idea applicata in altri stati è che esista una sorta di compartecipazione all'IVA che deriva dallo scontrino per chi lo richiede, lo tiene e lo documenta presso di sé. Un'esperienza del genere si è realizzata in Brasile, la funziona e si potrebbe anche valutare cose di questo tipo, però togliamoci dalla testa che la lotta all'evasione la facciamo con queste cose, ecco, qui ci vuole ben di più e ben diverso. Se noi commentiamo risultati di recupero dell'evasione che trionfalmente vengono definiti nell'ordine di 12 miliardi quando è esattamente 10 volte tanto l'ammontare dell'evasione stimata in questo paese. Sì, anche di più, c'è chi arriva a 160-200 miliardi di imponibile, però poi arriviamo alle altre misure, perché ricordo oggi il Presidente del Consiglio Mario Monti ha detto che contro gli evasori è stato di guerra, impossibile la pace sociale se non si contrasta questo fenomeno. Però per chiudere sul contrasto di interessi, di questo stiamo parlando, tra chi acquista un servizio e chi il servizio glielo dà, l'idraulico piuttosto che il falegname, insomma, gli esempi sono sempre più o meno quelli. Secondo lei il rischio più forte per lo Stato è dovuto al fatto che io chiedo la fattura, me la scarico e poi però l'idraulico, l'artigiano, insomma chi presta servizio non la dichiara e quindi lo Stato poi ha meno incasso da me ma non ha l'incasso equivalente da chi ha prestato servizio, come è avvenuto con le ristrutturazioni, oppure è dovuto al fatto che in realtà esistono ancora ampi margini, se facciamo i conti che poi faremo, per cui a me potrebbe continuare a convenire farmi dare la prestazione in nero, perché il vantaggio che ne avrei come detrazione è minore del vantaggio che mi farebbe, dello sconto che mi farebbe chi presta il servizio in nero. Sì, probabilmente esiste un po' l'una e un po' l'altra ragione. Io credo che però siamo arrivati a un momento in cui oggi stiamo dotando l'anagrafe tributaria di una tonnellata di informazioni, perché non ci dimentichiamo lo spesometro, l'accesso ai conti correnti, il redditometro, tutta una serie di informazioni che vanno a finire in quella che è stata definita una delle anagrafi tributarie più efficienti o più documentate d'Europa e del mondo. Bene, l'auspicio da professionista e da rappresentante dei contribuenti è che tutto questo si traduca nell'agognata semplificazione. Se hai già tutti gli elementi, tutte le informazioni, non me la chiedere ogni volta, tutte le volte, di ripetere ciò che già sai. Questo è un po' il tema. Poi guerra santa contro l'evasione. Qui dovremmo fare il rigore, significa guerra santa contro tutte le strutture. E mi faccia dire, lo dico sempre, la guerra santa sarà sul versante dell'evasione, ma deve essere anche guerra santa nei confronti degli sprechi alla spesa, se no non andiamo da nessuna parte e creiamo un clima di conflitto sociale che esaspera la collettività piuttosto che conduce a una sana condivisione dei principi a cui vorremmo tendere. Quindi secondo lei ha sbagliato Monti a parlare di guerra santa? Lui ha detto stato di guerra, non guerra santa, per essere preciso. Ma vede, mi sembrano, lo dico con tutto il doveroso rispetto, delle esagerazioni nella misura in cui sono a senso unico. Qui guerra santa o stato di guerra deve essere con tutti gli sprechi, perché la domanda è: spreca chi non paga le tasse o spreca chi non spende o chi utilizza la spesa pubblica in maniera difforme da quella che sono le esigenze sociali? Magari nel primo caso spreca sulla base di una ricchezza che perlomeno si è dato la pena di creare, nel secondo caso neanche quello. Quindi forse queste guerre sante, insomma, come dire, attenzione, perché arriviamo a quella che oggi piace definire con termini anglosassone compliance. Qua nessuno parla inglese ma nessuno rinuncia a usare termini anglosassoni, cioè arriviamo allo spontaneo adempimento quando c'è un clima di coesione e di condivisione sociale, per cui tutti sappiamo che i sacrifici sono fatti da tutti e in tutte le direzioni. Se sono visti come a senso unico, forse questo clima sociale si esaspera e gli obiettivi non si raggiungono. No, Cecilio, io sono d'accordo con lei, basta non dire, come fanno alcuni ascoltatori, siccome lo Stato, la pubblica amministrazione è inefficiente o spreca, io sono autorizzato a non pagare le tasse. Cioè, perché questo è un ragionamento molto... Io sono d'accordo con lei che un governo serio continua a fare la spending review seria, non 400 milioni, ma fa anche la lotta all'evasione. Per cui basta non trovare, diciamo, lo spreco della pubblica amministrazione come scusa per continuare a evadere, ecco. No, e viceversa è l'esatto contrario. Facciamo la guerra su tutti e due i versanti, invece di non farla su nessuno, come abbiamo fatto fino a ieri, o forse a farla su uno solo, come stiamo facendo in questo momento. Grazie al Presidente dei Commercialisti Italiani, Claudio Siciliotti. Grazie a voi, buonasera. Sì, però non mi basta, nel senso che Siciliotti dice attenzione, ci sono altri strumenti e soprattutto l'anagrafe tributaria, ne abbiamo parlato, l'anagrafe dei conti correnti, lo spesometro, il redditometro. Però io vorrei capire, fermo restando che negli altri paesi non è vero che si applichi in America per alcune cose, fare degli esempi concreti, cioè non so, una spesa da 200 euro per un idraulico, per un elettricista, per un falegname, un carpentiere, ho bisogno, come sempre in questi casi, di Gianni Trovati. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, un minuto di pazienza, dopo il traffico devo però dare una notizia brutta, e purtroppo ci abbiamo aperto il programma. L'Ilva ha annunciato ufficialmente la chiusura di tutto lo stabilimento di Taranto, chiuderanno anche i gruppi che gli stabilimenti del gruppo Ilva che Taranto rifornisce. Questa è la conseguenza non solo dell'avviso di garanzia, ma soprattutto anche dei domiciliari, degli arresti di cui raccontavamo prima, ma anche del blocco, del sequestro di tutto il laminato e di tutto quello che l'Ilva ha prodotto in questo periodo, perché secondo i giudici è una produzione illecita, non poteva produrre l'Ilva quanto ha prodotto. E quindi a questo punto, e sta coinvolgendo anche il governatore Vendola, nel senso che le intercettazioni riguardano anche colloqui tra i responsabili dell'Ilva e il governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, ma a questo punto il vero dramma per i dipendenti dell'Ilva sono, devo dire a livello italiano, non solo quelli di Taranto, sono 4.500, sono 12.000 in tutto il paese, è che il gruppo si ferma, se ben capisco. Di nuovo in diretta, dunque, fermo restando che, contrariamente a quanto può sembrare con il buon senso, gli esperimenti, la casistica non ci dicono che la possibilità di scaricare parte o completamente le spese sostenute per alcuni lavori poi abbia un'efficacia per lo Stato, vi vorrei fare due esempi e poi il commento a Gianni Trovati. Immaginiamo tre esempi. Una spesa di 200 euro. In questo momento, non so, un idraulico, un elettricista, non mi interessa chi. In questo momento io se faccio una fattura pago anch'io un IVA al 21%, quindi 242 euro. L'idraulico pagherà sulla somma IRPEF di sua pertinenza, immaginando il 27% di aliquota, 54 euro, un po' meno perché poi toglie le spese. Lo Stato incassa i miei 42 euro più i 54 euro dell'idraulico, 96 euro. Il problema è che di fronte a una cosa del genere, se tutto si svolge in nero, e quindi l'idraulico mi dice le faccio uno sconto di 50 euro, poniamo, perché non ce ne risparmia 4 o di 30, io risparmio 42 euro, l'idraulico ne risparmia 54, a meno che non mi faccia uno sconto comunque, e lo Stato non incassa nulla. Immaginiamo la possibilità invece che io possa portare in detrazione l'IVA, il 19%, se l'operazione è regolarmente dichiarata, o il 21%, scusatemi, in questo caso. A quel punto l'idraulico pagherebbe sempre 54 euro, io pagherei 42 euro di IVA, ma avrei uno sconto IRPEF di 38 euro, sto facendo i calcoli velocemente, lo Stato incasserebbe 54 euro dall'idraulico come prima, ma da me molto meno, perché è vero che gli ho pagato l'IVA, ma poi porto in detrazione sull'IRPEF lo sconto, incasserebbe da me solo 4 euro, quindi 58 euro contro i 96 di prima. Il consumatore, cioè io ho poco interesse a quel punto a evadere, perché la differenza sono 4 euro, non mi interessa finire magari. L'idraulico invece può propormi uno sconto ancora più alto, invece di 20 euro può arrivare fino a 50. Quindi in caso di accordo per l'evasione io guadagno più che nel regime attuale per alcuni versi, perché l'idraulico magari mi fa lo sconto di 20 euro, mi dice no guardi lo faccio di 40, pur di non farmi pagare il 54. Allora Gianni Trovati, questa norma non passa, non si applica, perché lo Stato ha il terrore che per alcuni anni, e con questi conti non possiamo permetterci indubbiamente, di incassare, come è successo con le detrazioni ha incassato, ha fatto emergere 620 milioni, ma ne ha regalati tra virgolette di agevolazioni fiscali 3 miliardi, e quindi ci ha rimesso lo Stato 2 miliardi e 4. È questo il motivo, oppure tu ritieni che il vero motivo sia che tanto comunque se poi l'idraulico mi fa lo sconto, dico idraulico per dire, mi raccomando, l'elettricista, dentista, mi fa lo sconto, l'avvocato, il notaio, abbiamo scoperto che pure i notai fatturano in nero, io comunque ho sempre un vantaggio più forte nell'avere il nero e non portare nulla in detrazione. Ma allora, i numeri che hai detto tu prima mostrano che anche con tutto con questo complesso meccanismo di detrazioni incrociate, diciamo così, il professionista o il lavoratore che ha in mano la possibilità di fare o non fare la fattura, con un piccolo sconto aggiuntivo superiore all'IVA può tornare, come dire, a far guadagnare anche il contribuente rispetto allo scarico degli scontrini. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, più generale, è che in Italia, per esempio, abbiamo appena certificato il fallimento di quello che era la più grande misura di contrasto di interessi introdotta negli ultimi anni, che è quella della cedolare secca. La cedolare secca aveva dentro di sé una ipotetica arma fine di mondo contro gli affitti in nero, perché aveva dentro anche la possibilità per l'inquilino di denunciare il proprietario che appunto affittava in nero e di costringerlo per 4 anni a canoni bassissimi. Sembrava una minaccia molto molto potente, in realtà si è visto, lo ha detto il direttore del Dipartimento Finanze la settimana scorsa con i dati ufficiali, la cedolare secca è stata praticamente un flop, cioè il suo gettito è stato circa un quarto rispetto a quello previsto. Quindi, come dire, è una idea appunto affascinante, diceva Sicigliotti, eccetera, ma la pratica si incarica di smentirla. In più c'è una considerazione ancora più generale. Qui stiamo parlando di un principio introdotto in una legge delega. Una prima versione di questo principio, che diceva in maniera più esplicita, puntava sul contrasto di interessi, ha avuto la netta contrarietà da parte del governo, per cui il Parlamento ha, come dire, annacquato un po' il principio, dicendo, delegando il governo a tenere in considerazione la possibilità in alcuni settori di sfruttare questo principio qui. Ora, siccome siamo sempre di fronte a una legge delega, la delega la attua il governo e il governo si è già detto contrario, come dire, non ci punterei troppo, anche perché sappiamo che siamo a fine legislatura, è già un punto interrogativo se si riesca ad approvare la legge delega entro la fine della legislatura. Sicuramente se si riuscirà a fare questa cosa, dal punto di vista dell'attuazione si andrà solo su alcune priorità specifiche, e questa non sembra essere una priorità specifica. Il problema alla fine della fiera qual è? È sempre il fatto che il meccanismo del contrasto di interessi introduce una perdita di gettito sicura esatto. A fronte di una emersione del nero incerta, ipotetica. Tu in questo periodo in cui devi arrivare al pareggio di deficit di bilancio nel 2013, in cui è tutta l'Europa che ti guarda, ti manca solo, diciamo in maniera molto realistica, che le entrate fiscali siano in calo rispetto alle attese, quindi poi il deficit aumenta. Prego Gianni. No, segnalo appunto esattamente una cosa. Per un esempio curioso, diciamo così, in Cina, in alcune zone della Cina, c'è un meccanismo per cui se tu chiedi lo scontrino e dimostri di avere appunto chiesto lo scontrino e hai lo scontrino, questo ti dà il diritto di partecipare a delle lotterie, a delle estrazioni a premi. In questo caso, diciamo, la scommessa è a carico del contribuente. Questo è già più fattibile. Mentre nel contrasto di interessi puro e semplice, la perdita di gettito è sicura, mentre l'emersione del nero rimane una scommessa a carico dello Stato. Lo Stato non è in condizione di fare scommesse. Tu sei molto molto scettico che questo possa passare. Io devo dire una cosa, vabbè, gli esempi che abbiamo, è inutile, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, innamorarsi delle idee quando poi le idee nella loro applicazione non funzionano. Anche a me piace l'idea di poter scaricare una cosa, però se poi si scopre che in realtà lo Stato ci perde, non voglio beccarmi un aumento dell'IVA o dell'addizionale IRPEF ulteriore dopo un anno, ok? Allora forse è il caso di andare lungo la strada, come ragionavamo con Gianni Trovati e Salvatore Padule e anche Sicigliotti in questi giorni, continuare con i controlli incrociati, anagrafe dei conti correnti, forse anche introdurre, abbassare l'uso dei contanti, io sarei anche per eliminare la moneta da 500 euro, per cui, ma insomma, usare la carta elettronica, le carte di credito molto di più, chiedendo alle banche che non ci guadagnino, anzi che le avvantaggino, visto che per loro poi questo sarebbe un risparmio dal punto di vista del personale. Mi sembra insomma che al di là dello specchietto per allodole questa cosa non sia destinata a passare, ma domani c'è l'esame al Senato. Grazie intanto a Gianni Trovati. Grazie. Il pensiero mio questa sera va, lo dico con la massima serietà e sintesi, a tutti i dipendenti dell'ILVA, non solo di Taranto, perché la notizia purtroppo che abbiamo dovuto dare, che l'ILVA è chiusa, lo ha annunciato il gruppo, chiude lo stabilimento di Taranto, ma anche tutti gli stabilimenti che Taranto rifornisce, È una notizia che riguarda oltre 10.000 persone in questo paese. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.